Vocal Coach Instrumental. Bounce, Gucci Bounce, the Cartier's in the house. The chico fake, Julie Money, that mouse. Bounce, Gucci Bounce, the Cartier's in the house. G-A-G-L-E-A-R-I, Cagliari. Questa è la mia city, vieni a prendermi. G-A-G-L-E-A-R-I, parte 2, baby. Direttamente da Cagliari, la city rosso-blu degli scombos. Gli scontri armati e le sciarpe coprono il volto. Lo stadio è quello, Sant'Elia per l'incontro. Cagliari squad, il fronte ha perso il controllo. Smoca giarro, ripresi in fretta i palazzoni. Passano prima le donne oppure calci nei coglioni. Noi di poche pretese, basta che siano accese. Mentre il palco sforna reggae fermo al corto maltese. Questa è Viale Poeto, se la sogna Varese. Con le clues è perfetto perché muoio di sette. Mentre in Viale le bici stolgono i vestiti. Tu sei lì con i tuoi amici mentre giochi al Play City. Chi che segano da scuola, li incontri al McDonald's. Piazza Matteotti, rapano per più di un'ora. Pure le pigne in piazza, ogni rima fanno la ola. Eccolo il motivo per cui io non ho un diploma. Eccomi di nuovo in giro a Cagliari Town. Bounce, Gucci Bounce, qui Cagliari's in the house. E scivo fuori giù le mani dal mouse. Bounce, Gucci Bounce, qui Cagliari's in the house. G-A-G-L-E-A-R-I, Cagliari. Questa è la mia city, vieni a prendermi. G-A-G-L-E-A-R-I, Cagliari. Odiaci oppure amaci. Odio i compensi di Foot Locker. Gli vai a comprare scarpe e ti rifilano le calze nuove. Odio chi sparla col mio nome per defiato. Più amici io di te che ti odiano a Monserrato. Cagliari's in the house, Sant'Elia, Tuvu Manu, Assemini, San Michele. Bella i cugini di quarto, con loro io me la rido. Il sabato vesto figo, basta che voi le tipe non cagano come al nido. Lady to Brand the Cube, forse sei sotto i 16. Dopo sei andata al micro e l'hai finita sotto 16. Credici, le puresce che fanno scuola. Scontate ma care quanto i prezzi che c'ha Bertola. Ho preso il 9 per anni e ho visto più africani lì che negli spot che fanno per salvarli. Ho visto i tipi più strambi. Questo è Cagliari Town. Eccoci, Cagliari's in the house. Eccomi di nuovo in giro a Cagliari Town. Bounce, Gucci Bounce, qui Cagliari's in the house. E scivo fuori giù le mani dal mouse. Bounce, Gucci Bounce, qui Cagliari's in the house. G-A-G-L-E-A-R-I, Cagliari. Questa è la mia city, vieni a prendermi. G-A-G-L-E-A-R-I, Cagliari. Odiaci oppure amaci. Eccomi di nuovo in giro a Cagliari Town. Bounce, Gucci Bounce, qui Cagliari's in the house. E scivo fuori giù le mani dal mouse. Bounce, Gucci Bounce, qui Cagliari's in the house. G-A-G-L-E-A-R-I, Cagliari. Questa è la mia city, vieni a prendermi. G-A-G-L-E-A-R-I, Cagliari. Odiaci oppure amaci.